9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché no? Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, la prima vera settimana di settembre, questo 3 settembre, auguri a chi si chiama Gregorio, oggi è San Gregorio Magno, un grande papa, grande energia, grande decisione, quella che ci vuole per tentare di non scoraggiarsi alla ripresa vera di questa troppo lunga estate, per chi l'ha fatta, pochi in realtà, molti italiani hanno fatto finta che fosse estate, perché il problema italiano resta serio, serissimo, molto molto molto più serio di quanto purtroppo non tutti, noi tutti vorremmo. E in questa settimana, tra le attese della il consiglio della BCE che si riunisce il 6, tra tre giorni, e vediamo se la Banca Centrale Europea ci riserva la conferma, come tutti i mercati hanno sperato nel mese di agosto, dell'intraprendenza, della decisione, della determinazione di Mario Draghi di fare tutto il necessario perché l'euro si salvi, malgrado le bordate incassate dai tedeschi. Però la Merkel alla fine ha più difeso Draghi che attaccato. Ma al di là della BCE e al di là del 12 settembre, la decisione degli 8 giudici della Corte Costituzionale tedesca, altra spada di Damocle a cui tutti siamo appesi, al di là dell'attesa per capire se davvero a ottobre Israele scatena l'attacco sull'Iran, e guardate che se accade quello per incatenare le elezioni americane di novembre al calendario medio orientale, con Israele che non si fida più degli alleati occidentali, il mondo si arroventa e il barile va oltre i 200 euro e i 200 dollari al barile. Auguriamoci naturalmente di no, ma al di là di tutto questo l'Italia ha suoi problemi, un suo calendario di serietà e di mancanza di serietà da affrontare. Allora, in questa settimana il governo comincia a convocare le parti sociali su un'agenda della crescita, della produttività, e modestissimamente io penso che invece di farci assistere, come è avvenuto nelle ultime settimane, a mirabolanti serie di annunci di nuovi provvedimenti a decine di miliardi di euro, i componenti di questo governo si stanno un po' disunendo, come i vecchi governi di partito e di coalizione alla fine delle legislature. Beh, hanno in testa legittime ambizioni politiche, e però se commettono lo stesso errore dei governi politici alla fine di legislatura non ci si capisce più nulla, perché annunciare misure rispetto alle quali poi il Tesoro in poche ore dice: ma ragazzi, ma di che state parlando? Cara Ministro Fornero, che dici che il cuneo fiscale è il vero problema, certo che è il vero problema, la vera riforma del lavoro sarebbe abbattere l'eccesso di cuneo fiscale di pretesa dello Stato rapace, dilapidatore sul lavoro e sull'impresa, però non è questa la linea che ha seguito Monti, che ha detto che le tasse non le può toccare perché le spese non si possono toccare. E allora ecco che il Tesoro, dopo poche ore, quando il ministro Fornero dice: ma abbassiamo il cuneo fiscale, sia pure solo per quelle imprese che virtuosamente facciano quello che lo Stato si riserva a lei di dire che cosa è virtuoso, come sempre, però il Tesoro gli dice: guarda che i soldi non ci sono, e così via, e così via. Allora, invece di commettere questi errori, il governo dovrebbe cercare di mettere a punto innanzitutto le tante cose che ha varato e che non funzionano. Dovrebbe correggere gli errori, tipo per esempio la diminuzione della detassazione fiscale al salario di produttività, che è l'esatto opposto di quello che serve. Dovrebbe varare i provvedimenti attuativi delle tante misure contenute nei suoi decreti, abbiamo visto la scorsa settimana, come per esempio le 13 forme di agevolazione fiscale premesse insieme alle botte in testa e nel portafoglio che abbiamo avuto con i diversi decreti del governo, con gli aggravi fiscali. Ecco, noi gli aggravi fiscali li abbiamo avuti, e come, ma le 13 diverse forme di agevolazione previste dal Salva Italia sono rimaste sulla carta, perché al Ministero dell'Economia si sono ben guardati dallo stendere regolamenti attuativi. Ecco, io penso che un governo che non è legittimato dal voto degli italiani in questi pochi mesi dovrebbe soprattutto tentare di portare a compimento quel po' di buono che ha fatto, correggere il parecchio di cattivo che ha fatto, piuttosto che disegnare strategie mirabolanti per le quali mi pare innanzitutto non vi è il consenso. Però staremo a vedere che cosa davvero uscirà fuori da questi incontri. Vedo che Corriere della Sera e Stampa sono potentemente in azione per sostenere in tutti i modi il governo Monti, posso capirlo. In questi giorni si sprecano le pagine dei quotidiani diretti da Ferruccio De Bortoli e da Mario Calabresi sulla produttività nella quale noi saremmo ultimi in 10 anni, e lo siamo davvero, sono 10 anni buttati e l'Italia è ultima tra i 27 paesi avanzati per crescere il prodotto e produttività. Tuttavia i problemi politici sono quelli ben noti. A me pare che i vecchi partiti siano lontani anni luce dall'avere la capacità, la lucidità di affrontare temi come questi, ma innanzitutto bisognerebbe cominciare dal basso ad affrontare i problemi dell'Italia quotidiana, che si oppongono a chi tenta, malgrado tutto, malgrado questo fisco, malgrado queste regole amministrative, malgrado il sovrapprezzo energetico, malgrado la giustizia civile che non funziona. Malgrado tutto questo, c'è un pezzo d'Italia, il 25% del PIL che esporta, per capirci, ma non solo quello, che resta in piedi, che riesce nel miracolo quotidiano di sfidare tutte queste condizioni di mancanza di competitività e di aggravio rispetto ai concorrenti esteri, e che dice: signori, io non solo riesco a vincere questa sfida, ma riesco a esportare, a vendere bene i miei prodotti, faccio qualità, valore, innovazione, valore aggiunto. E a molti di questi, noi invece di spianargli come un'autostrada la possibilità di riuscire a dimostrarci che continuano a creare lavoro, impresa, reddito e patrimonio, noi non troviamo niente di meglio, prima ancora di dividerci sulla politica, che nella quotidianità amministrativa impedirgli di fare esattamente quello che vogliono fare. Cioè, in Italia che ha il record dei disoccupati, che ha 140 tavoli aperti con 30.000 esuberi come minimo rispetto a 150.000 addetti, 140 tavoli aperti al Ministero delle Attività Produttive, e che su vicende come il Surcis, Alcoa, Portovesme, l'Ilva di Taranto, vede i poteri pubblici nella incapacità balbettante di dire la verità su alcune di queste produzioni, alcune come quella della miniera, abbiamo visto, bisogna o convertirla, ma non si può andare avanti con i miliardi pubblici per tenerle aperte. In questi i lavoratori hanno ragione, abbiamo detto, molti hanno confuso, poi mi hanno detto: ma i lavoratori hanno ragione, cioè bisogna spendere miliardi per tenerla aperta a qualunque costo. No, la politica deve smettere di non dirgli la verità, oppure deve smettere i poteri pubblici di non saper fare accertamenti che consentono a un'impresa di dire: sto facendo il giusto, come all'Ilva, improvvisamente poi chiudere per ordinanza penale. Ecco, allora oggi affrontiamo nella prima parte di questa trasmissione esattamente un altro di questi paradossi italiani, un altro di questi casi, con un imprenditore che adesso ci racconterà che da tempo, molto tempo, troppo tempo, non ambirebbe a fare niente di più che a crescere la sua produzione in Italia, eppure non ci riesce perché gli dicono no, no, no e no. Allora, di chi si tratta? Si tratta di Jimmy Baldinini, che è un imprenditore appunto nel settore delle calzature, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani, e io lo ringrazio di essere qui con noi stamane. Buongiorno Baldinini. Buongiorno. Allora, vogliamo raccontare un secondo per chi non conosce la sua storia. Ma lei ha detto delle cose sacrosante, proprio quando ho sentito dicevo perfetto, proprio, è proprio lo specchio di quello che penso io. Ecco, vabbè, però adesso raccontiamo a chi non conosce il suo gruppo, certo. Chi, dove è il suo gruppo, cosa fa il suo gruppo e perché è qui stamattina, cioè perché da quanti anni e dove ha questo delitto di voler estendere uno stabilimento. Per ampliamento, perché tanto le aziende devono sempre diventare più importanti e devono combattere con tutto il mondo, vediamo uno specchio dei francesi, quindi tu non puoi essere inferiore, quindi la battaglia deve essere alla pari, e allora noi, io dico che, e sono sicuro di quel che dico, devi diventare sempre più forte, perché quando il giorno tu dici adesso basta, sono contento, vuol dire che è finita. Quindi io ho chiesto già 8 anni fa un ampliamento in zona predisposta artigianale, e è successo il finimondo, vabbè. Ancora oggi siamo qua, ma mi sembra che le cose non vadano per un discorso. Poi io dico, ma non c'è la disoccupazione, non c'è, perché quando ostacolano le aziende per andare avanti, vuol dire che la gente non ha bisogno di lavoro. Allora, ricapitoliamo, lei è un calzaturiero, siamo nella regione di Savignano, quindi in Romagna. La mia azienda ha 100 anni, non è un'azienda improvvisata. E si vuole estendere. Si vuole estendere su una proprietà che è sua? È mia, sì, 100.000 metri. Io. E l'obiezione, cioè io no, da quali parti di pezzi di pubblica amministrazione? Ma no, perché quando ognuno mette la sua, praticamente ogni politico arriva e dice una cosa, poi c'è un'altra cosa veramente scandalosa, accordo di programma, è un ricatto legalizzato, perché un accordo di programma è l'importo, a volte come l'importo per fare un ampliamento, milioni, non è che parliamo di... E allora questo modo di andare avanti non è piacevole, le liberalizzazioni che si parla, cosa aspettano? Che si arrivi, perché noi adesso 75% lo facciamo fuori, lo facciamo in Italia, ma però possiamo pensare anche all'estero. Quindi è una cosa da considerare, è un sistema che non ti permette di andare avanti. Allora, ma non è che chiedi soldi, ne dai, anche poi ci sono rotonde, piste ciclabili, illuminazioni, addirittura ponti, ma dai, un ponte, non ponti. Ma è una cosa ridicola, è fatica anche spiegare. Cioè, tutte le volte che la pratica ha tentato di andare avanti per gli oneri di modifica dell'utilizzo... No, abbiamo firmato l'accordo. Sì. Ah, ecco. Però... Abbiamo firmato l'accordo con tutte le parti sociali. Alla fine mi sembra che si mangia, lo vogliono annullare. Vorrebbero, perché non... Poi dopo succede che mi denuncio. No, io non voglio che lei prenda denuncia, però ho letto ultimamente ancora sul Resto del Cardino che esponenti dei Verdi, Davide Fabbri in particolare dei Verdi, ambientalisti, dicono per l'ampliamento dello stabilimento l'impegno che lei ha preso a spendere 1.100.000 euro in opere pubbliche è una miseria, cioè che siccome lei vuole risparmiare, no, sono le parole testuali virgolettate, che quando loro danno in 3 anni 30.000 euro di aiuto alle aziende, io do 1.100.000 euro. E appunto, beh, io dico, cioè in realtà secondo lei quale sarebbe il prezzo giusto secondo chi... No, il prezzo giusto è che dobbiamo voler bene l'Italia e non... C'è l'Austria, la Svizzera, che viene qua e dice vuoi un capannone di 10.000 metri? Facciamo tutto noi, tu non pensare niente, trattiamo le tasse, ma tutta la burocrazia sistemiamo noi in 4-5 mesi. 8 anni, poi... Eppure la parte in cui la sua azienda storicamente è radicata, la sua storia, si vanta di essere, diciamo, più vicina a un modello per il quale si conoscono e si capiscono, si assecondano le ragioni delle imprese. Cioè, insomma, la parte rossa emiliana romagnola si è sempre vantata di essere più vicina al modello produttivo che nel resto d'Italia, dove insomma era più ideologica. Non è so, così, non è così, io, com'è? Per me non è così. E all'estero, assolutamente, e all'estero... Io non è che sono legato a un partito, io guardo le cose, le vedo, le giudico, per me non è così, anzi è l'opposto, ecco. Senta, i suoi concorrenti all'estero, se dovesse paragonare qualche volta che ne incontra qualcuno e vi raccontate come funziona la casa loro, dico dei paesi avanzati, non dico dei paesi emergenti dove è ovvio che la normativa e i tempi sono tutti più rapidi, ma dovesse fare un paragone con un suo collega, che ne so, francese... No, è vergognoso parlare di questo. Non, io sono orgoglioso di essere italiano, sono fiero, sono leader in Russia, penso di essere molto molto forte, non so, il primo, quel che è. E allora cosa devo dire? Parlo bene dell'Italia, ma l'Italia queste cose qua che non vanno. La liberazione delle domeniche è stata una cosa fantastica, i negozi aperti, ma un vantaggio per tutti, no? ma è andata avanti, avanti, avanti. Adesso la deliberazione di poter espandere la propria azienda, dovrebbero loro essere contenti, perché io assumo 50 persone, e invece devo tenere 7-8 capannoni in giro qua, dispersioni, una tragedia, insomma, una cosa così. Però, onestamente, dopo 10 anni è vergognoso, insomma, non si può parlare in corso di una cosa di questo tipo. E in questi 10 anni non le è capitato mai che qualcuno, nel comprendere che qua si trattava di estendere un'attività nota, famosa, di successo, che si estende, si radica, non è mai capitato che qualcuno dice: senta Jimmy, ma ho capito, qui adesso mi tiro sulle maniche, vediamo di risolvere tra comune e provincia il tutto, le è capitato e non ci sono riusciti? No, mai, o non mai, le è proprio mai capitato? Mai? No. Ho tentato di trovare una via d'uscita, ma non c'è, perché poi in un comune sono tanti, uno può ragionare bene, l'altro distrugge tutto, perché lì devono essere tutti d'accordo. Questo mi è capitato certamente di andare all'estero, questo sì. Noi vendiamo il 95% all'estero. Abbiamo 100 negozi in Russia, un'azienda, un fiore all'occhiello. Non sarebbe giusto che dicono da me, insomma, io non devo giudicare me stesso. No, chiaro. Però è così. Io le chiedo, sa, noi a tante volte mi accusano, ho fatto tanti programmi su la Carinzia, la Slovenia, la Serbia nell'automotive, la Svizzera, che offrono le condizioni che lei ha ricordato prima a chi vuole fare impresa lì. Dove in Serbia, esatto, dove è andata la Fiat. Esatto, molto, molto esatto. E tutti mi dicono, però Oscar, Giannino, esageri, perché qua bisogna difendere la localizzazione italiana. Io sono il primo a dirlo, però il problema è che gli ordinamenti competono. Chi non è capace di competere e di stare al passo con un mondo in cui tra tasse, regolamenti amministrativi, libertà di fare, in cambio certo poi di rispetto di leggi, regolamenti, sicurezza del lavoro, diritti, mica qua si tratta di stare nel paese del darwinismo e della legge della giungla in Italia. Però chi non capisce questo, secondo me, inevitabilmente, io preferisco dire a un'impresa italiana: difenditi, ma vai dove puoi prosperare, piuttosto che stai qua e morire. Allora io so che questa alternativa, chiederla a lei, che è un imprenditore di successo, che sta qua, non sta morendo, è sbagliata. Ma come si fa a spiegare alla politica che o capisce che i tempi sono quelli, oppure si illude se pensa che l'impresa italiana resti qua a morire? No, ma in genere un politico può capire, come no, perché uno che io onestamente dico, noi dobbiamo subire la politica. Ma non è giusto subire la politica in silenzio e basta, ma uno che sono poche quelle persone che capiscono questo problema, in più delle persone sono persone che non riescono a capire, perché nella vita hanno più difficoltà, si mettono in politica, sono molto bravi quando parlano, però la verità poi infine viene fuori. Lei pensa che rispetto ad anni fa, quando l'Italia esplose 20 anni fa per Mani Pulite e così via, le è mai capitato, non le sto chiedendo di dirci in particolare, ma le è mai capitato di pensare la vecchia politica è quella di questi 20 anni, quando si tratta di dire sia procedure amministrative complesse come nel suo caso, la tentazione di aspettarsi qualcosa in cambio, di chiedere qualcosa in cambio, si è aggravata, è come prima o è meno di prima secondo lei? No, non è questo lato qua, c'è soltanto l'accordo di programma, dove è una cosa di arbitrio, non è una cosa stabilita tanto, e questa è la cosa molto negativa, perché loro possono chiedere 1 milione, 2, 3, 4 e tu devi spendere 1 milione per fare l'investimento, insomma non è, e questa è una cosa che diciamo ricatto legalizzato, perché ecco, a un certo punto uno ti chiede una cifra esagerata, tu dici no e dopo non lo fai. A me piace molto questa espressione che ha usato Jimmy Baldinini: uno stato discrezionale che non ti dà certezza ex ante di quali siano gli oneri collaterali all'apertura o all'estensione di un'attività di impresa, e che li varia di volta in volta, ti guarda in faccia, riapre firmando la pratica, ecco, dopo che ha firmato cambia idea, non è uno stato depositario di legalità, è come una specie di bandito di strada che per farti attraversare un vecchio ponte medievale, a seconda di come stima che tu abbia in tasca, ti dice, no caro mio, non ti faccio passare, no, sei passato, tiri a chiappo e così via. Cioè, questo ricatto legalizzato, di cui ha parlato Jimmy Baldini, descrive uno stato che da fonte delle legalità diventa fonte dell'incertezza giuridica, dell'arbitrio discrezionale, e questa è una delle ragioni per cui l'Italia non può far crescita, perché di Jimmy Baldinini, grazie al cielo, non so per quanto, ce ne sono ancora tanti che tengono in piedi il nostro export, l'attivo commerciale, facciamo l'80% del prodotto potenziale italiano, da quelli che fanno meno di un quarto del PIL, ma sono capaci di esportarli con prodotti con valore aggiunto come i Baldinini nei diversi settori, ecco, e a quelli lì noi riserviamo questo atteggiamento che vi abbiamo fatto descrivere da Jimmy Baldinini oggi. Avete colto, ve lo chiedo cari ascoltatori che telefonerete tra poco, delle venature nelle parole di Jimmy Baldinini di arroganza imprenditoriale? Avete colto forse dei giudizi apposta, l'ho un po' pizzicato per farvi capire se ne faceva questione di battaglia politica? Aveva detto serenamente di no, che la questione non è il colore politico, la questione è semplicemente che se uno Stato non capisce che a chi va bene deve non fargli travalicare le leggi, ma metterlo in condizioni in pochi mesi come altrove, ma vogliamo dire un anno, ma se neanche in 8 anni riesce ad aggiornare in maniera comprensibile il taglieggiamento a cui sottopone imprese come quelle di Baldini, allora è uno Stato prima stupido e poi anche ladro. Io ringrazio Jimmy Baldinini, spero che questa trasmissione lo aiuti, non credo, con questo mio tono soffro e mi addoloro per tutti quelli come lui e per gli stupidi politici che non capiscono che in pochi minuti andrebbe risolta una questione come questa. 8 anni bloccata, né nuovo lavoro né nuovo export. Siete contenti di impedire nuovo reddito nelle tasche di Baldinini? Stupidi, perché non pensate a quanto reddito, a quante famiglie, a quanto lavoro saremmo in grado, coi tanti Baldinini messi in condizione di lavorare, di evitare nuovi disoccupati e nuova perdita di reddito e di patrimonio in questo paese. Ora, io so già, ho già visto l'avvisaglia, che i politici locali del comune interessato della provincia di Rimini si faranno sotto dicendo che naturalmente ho raccontato una verità unilaterale, che sono un servo al servizio delle imprese, che esso rappresenta un punto di vista altro rispetto alla realtà, che è naturalmente la loro che difendono, che da 8 anni dicono no. Mi dispiace, a questo punto non si tratta di dire che ci sono tante buone ragioni. Ho dato conto delle ragioni dei Verdi, che sostengono che 1.100.000 euro, che Baldinini crede di fare furbo, che deve pagare tutte le opere pubbliche che non pagano i bilanci locali, questo è taglieggiamento. Io la penso come Baldinini. I politici locali che la pensano così e che credono di rappresentare il giustizialismo del piffero che hanno alimentato per anni, malgrado i loro bilanci finalizzati solo ad assumere gente, sono per me dei taglieggiatori ufficiali. Poi se hanno la legge e la pubblica amministrazione dalla loro, me ne impipo, perché quello che conta è che ciò che producono il no a imprese che vogliono crescere è una maniera stupida di assolvere il proprio mestiere. Non sto dicendo che rubano i soldi, non sto dicendo non è un discorso che ha a che vedere con destra e sinistra, potete immaginare quale sia il colore di quelle amministrazioni, ma capita da tante altre parti a prescindere dal colore in Italia, quindi io non ne faccio una questione di questo tipo, e anzi anche Baldinini vi ha spiegato che non ne fa una questione politica, ne fa una questione di ordine generale, perché dice: quando io per ampliare lo stabilimento devo addirittura pagare un ponte e farmi sostituto di tutte le pubbliche amministrazioni che dicono non c'hanno soldi, paga tu, siamo come al caso di Civitavecchia, dove il sindaco Tidei, ex presidente dell'autorità portuale, dove ha fatto molto bene, adesso dice all'Enel: cara Enel, se vuoi che io ti sblocchi la pratica sulla centrale, a me mi hanno tagliato 50 milioni per il patto di stabilità come comune, tira fuori 50 milioni tu, altrimenti io non ti do l'ok. Questo è il modo. Allora, io posso capire l'amministratore locale perché gli hanno tagliato il patto di stabilità, i soldi, eccetera. Posso capirlo, abbiamo fatto tante trasmissioni. Ma non è che però ci si rivolge taglieggiando le imprese dicendo: sapete che c'è, siccome Roma e il governo non mi danno più soldi, o me li dai tu o non lavori. Un'Italia in cui i poteri pubblici si riducono a questo è un'Italia che si sta inabissando, altro che gli incontri sulla produttività col governo Monti. Un'Italia che va rivoltata come un calzino, perché dovunque tende a funzionare così, cioè a non funzionare così. Ed ecco poi che, come se non bastasse, perché è vero che noi poi siamo purtroppo in fondo alle classifiche di competitività, abbiamo sovraccosti di tutti i tipi e così via, ma se ci aggiungiamo anche la miopia di una politica che non capisce che deve spendere meno per sé e per i perimetri pubblici e di più pensare a chi è capace di crescere, se pensa alla politica di mantenere i perimetri della spesa pubblica a servizio dei dipendenti, degli interessi pubblici e così via, e per il resto finanzia il privato se ne andrà, il privato chiuderà se non se ne potrà andare e noi vivremo intaccando il patrimonio ereditato dalle generazioni precedenti. Abbiamo questa bella ciccia intorno ai fianchi che è l'elevato patrimonio, il più elevato tra i paesi avanzati, ma un giorno finirà e a quel punto i migliori saranno già fuori da tempo e non saranno più tornati, e questo è il tragitto del declino che bisogna fermare, secondo me. Poi adesso vi proponiamo un altro capitolo di questo paradosso, perché mentre in Italia appunto ci fermiamo con il culo sui talloni, c'è una parte del mondo in cui hanno fame, la Cina, tanto per farne il solito esempio, e allora faremo una riflessione tra poco sulle scarpe made in China con la creatività italiana, e cioè è grazie ai cinesi che ci fanno una bella concorrenza su questo che poi dobbiamo imparare qualche cosa, capito? Cioè si tratta di imparare da chi ha fame e in Italia sta fame l'ha persa purtroppo. Ma prima sentiamo un po' di telefonate da parte di alcuni di voi, cominciamo con, perché è andato lo schermo, Carlo da Roma, prego Carlo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sentivo prima il signore, l'imprenditore quello Baldini delle calzature. Sì. E mi sembrava di rispecchiare in piccolo, perché io non sono così grande, la stessa identica situazione qui a Roma per quanto riguarda me nella medicina, perché ho avuto la stessa identica no secco, senza una motivazione dalla Regione Lazio per ampliare un'attività di medicina in un centro che cui avevo comprato e ho investito 700-800 mila euro in una zona di Roma. E lei aveva un'azienda in ambito sanitario? Sì, molto conosciuta, perché facciamo medicina di terzo livello e quindi insomma medicina diciamo con di un livello più alto, però ho chiesto l'autorizzazione, perché prima era comunale e della ASL, poi non si sa perché con una legge la Regione Lazio si è presa questo aggravio di impegni, dicendo che deve essere lei ad approvare l'autorizzazione sanitaria, e ho chiesto di poter fare un poliambulatorio per poter fare medicina. E la risposta è stata no, perché? No, è stata no, non c'è un perché loro hanno fatto la legge 4, dove loro questa legge 4 dicono noi possiamo, tengo presente, totalmente privato, senza convenzionamento, totalmente privato. Tutto quindi non privato. È che lei stesse chiedendo soldi assolutamente pubblici? No, io non voglio nessun soldo pubblico, non ho mai chiesto, non voglio assolutamente soldi pubblici, non ci penso proprio. Tutti i centri, anche io altri centri a Roma, sono totalmente privati, e hanno detto no, perché in base alla legge 4 il piano di fattibilità, che non si sa che cos'è questo piano di fattibilità, che non c'è del territorio, non esiste, non è mai esistito, e diciamo di no, in questo momento no. E quindi faccia conto, un laboratorio che io ho, questo centro che sarà piccolo rispetto alle grandi cose di Baldini, però di cose piccole in cose piccole, dicendo no e no si distrugge la crescita. E quindi Carlo, io la ringrazio, mi perdoni, per la sua testimonianza, ma purtroppo sono amaramente certo che il caso di Giulio Baldinini che abbiamo prima rappresentato è uno dei tantissimi casi. Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, che produce in 42 paesi e che ovviamente non è certo un piccolo gruppo che piange miseria in Italia, racconta sempre a ogni uscita che fa gli 8 anni che ha messo, 8 anni per avere le autorizzazioni all'ampliamento di uno stabilimento qua in provincia di Milano, e gli 8 anni nei quali lui non è riuscito a ottenere l'ampliamento di uno stabilimento nel Lazio meridionale. Quindi è una, più che un'eccezione, quella di Giulio Baldini che abbiamo sentito prima, direi che è più una regola in questo dannato, disastrato paese. Luca da Udine, prego Luca. Buongiorno. Io ho risolto i problemi da presentare adesso, sicuramente porto un problema molto molto minore, però è un'attività appena cominciata, l'attività interessata non è Udine nella provincia. Comunque niente, praticamente appena cominciata l'attività è stata fatta l'autorizzazione per installazione di un distributore automatico, autorizzazione regolarmente data, poi visto che si è pensato di cambiare il modello di installazione è stata fatta una variante di installazione, nessun problema, installata la macchina, chiaramente qualche tempo dopo, chiaramente nei tempi si è consumato il periodo per il quale è stata chiesta l'autorizzazione, si è arrivati al rinnovo, è stato detto no, perché è troppo grande, ma le valutazioni sull'impatto chiaramente sono preordinate alla concessione, e chiaramente per una piccola attività un investimento che corrisponde a un'utilitaria è devastante all'inizio dell'attività, soprattutto quando uno si espone con tutto quello che ha praticamente per poter sostenere, per creare qualcosa per il proprio futuro. Questo è, secondo quello che io reputo, il leggero utilizzo dei mezzi giuridici, perché se un'installazione è nuoce, diciamo, all'utilizzo pubblico, nuoce fin dall'inizio, non nuoce, da un certo punto in poi. Da un certo questo, punto in poi. Sicuramente, secondo me, questo modus operandi è leggero e privo, dimostra che chi dà o nega le concessioni non subisce sulla sua pelle le conseguenze di questa cosa, perché tanto lo stipendio arriva allo stesso fine mese o altri motivi, o comunque non è dedito al compito che deve svolgere in modo, secondo me, coerente e preciso. Grazie anche a Luca, un altro caso di arbitro discrezionalità. Antonio da Bergamo, prego Antonio. Buongiorno signor Giannino, io la sento spesso al mattino parlare di questi problemi qui, però la mia domanda, lei se la prende sempre con lo Stato, ma lo Stato siamo noi. No, perdoni Antonio, poi le ridò la parola, no, lo Stato non siamo noi, lo Stato non è lei, a meno che lei non sia presidente di provincia, di comune, rappresentante eccetera eccetera. Nel caso di Jimmy Baldinini, lo Stato, cioè i pezzi di Stato che, con i quali lui non riesce a raggiungere un accordo per estendere la sua impresa, sono i rappresentanti del potere pubblico nel comune e nella provincia interessata. Quindi lo Stato non siamo noi, lo Stato è nelle mani pro tempore di gente che vince le elezioni e di gente che ci sta sempre, non pro tempore, cioè i vertici amministrativi. Questo almeno per me, però io rispetto, e l'ha interrotta solo per restituirle la parola, perché su questo io sono proprio depositario di una visione diversa. È una questione di filosofia politica, di filosofia del diritto, e la sua importanza, perché naturalmente da questo discende tutta una serie di conseguenze, tipo quelli che dicono il debito pubblico è meglio che ne rispondiamo noi col nostro patrimonio, perché tanto è un debito nostro, lo Stato siamo noi. No, lo Stato l'ha fatto lui il debito e lo ripaghi lui. Però ecco, le ridò la parola e mi scuso. Mi perdoni se ritorno la parola io, ma voglio dire, tutto quello che sta dicendo lei è condivisibile, ma è condivisibile al 100%, però la domanda mia è questa qui: i cittadini, la società civile, gli industriali, i sindacati, ma perché non fanno loro, cioè fanno propria questa istanza, questa che è una cosa oggettiva? Perché gli industriali, che noi, va bene, lei tutto quello che può dire sugli industriali, che fanno giustamente, vanno all'estero, però intanto si impoverisce l'Italia, intanto c'è disoccupazione in Italia, cioè, perché questi industriali qui, questa situazione industriale, non prende in mano la situazione a dire: signori, le cose devono essere messe sotto questo profilo e non sotto quest'altro profilo. Scusi che io non sono molto bravo a parlare. Ma è bravissimo. Lei sta dicendo che chi è consapevole di tutti questi guai in Italia si deve tenere sulle maniche e assumersi le sue responsabilità. Antonio, io sono d'accordo. Se crede, vada su un sito www.fermaledeclino.it. Come vede, io ci metto la mia faccia. Io non ho né redditi da dipendente né cose assicurate. Ci sto mettendo la faccia. I giornali si divertono, dicono che penso di fare a Napoleone entrarmi in politica. Io penso, come lei, che chi in Italia ha la consapevolezza di quanto grave sia la situazione del nostro problema, colpa nostra, non dell'euro, della globalizzazione, deve metterci più la faccia, cioè deve dire: sono disponibile a un passo avanti per sostituire classi dirigenti, pezzi di pubblica amministrazione, pezzi di politica incancrenita che recitano solo il vecchio teatrino, di farlo a tempo per far vedere che competenza, serietà e consapevolezza dei problemi dei tanti italiani che stanno male nel reddito, nel patrimonio, perché è loro il problema, è a loro che bisogna dar voce, non bisogna fare il piccolo partitino degli imprenditori, dei liberali, liberisti, mercatisti. Bisogna parlare trasversalmente ai milioni di italiani che se la passano male, a una generazione che abbiamo privato del futuro, a cui stiamo riservando una fregatura storica. Ecco, a quella gente lì bisogna dire: chi può e ha un pezzo di vita già realizzata, tale da consentirgli di tirarsi sulle maniche, come Antonio da Bergamo, io penso che deve fare un passo avanti. Non vi dico, seguitemi, vi dico solo che io per primo ragiono così. www.fermaredeclino.it. Questa è la mia risposta, e devo dirvi che è passato un mese preciso da un articolo che mi fece sobbalzare, di Rita Fatiguso, strapitosa col collega del Sole 24 Ore, con la quale spesso imparo nella articolazione della geografia produttiva italiana tante cose, io mi ne picco di sapere, ma ce ne sono infinite che grazie a Rita imparo. E esattamente un mese fa mi ha fatto fare un salto sulla sedia per questo articolo fantastico dedicato a Leolin. Leolin, che non è il nome di un cantante melodico napoletano, ma è il nome di Lin Mingzhong, un 45enne di Guangzhou, di cui ho appreso delle cose spettacolari guardando innanzitutto la foto di questo Guangzhou Glamour Shoes Mall Exhibition Center. Insomma, questo signore che 45 anni, una delle aree ad alta intensità economica e crescita in Cina, sta diventando il capo dei cazzatorieri cinesi, ne produce decine di milioni di paia, è lui che ci insegna come vendere al meglio scarpe anche italiane da lui. E a Rita Fateguso gli chiedo, nel raccontarci questa storia, ma personaggi come Leolin ci aiutano davvero oppure sono così affamati che fanno anche le nostre mettendoci l'etichetta? È un aiuto interessato, disinteressato? Che tipo di rapporti bisogna avere, stante la storia che abbiamo sentito prima di Jimmy Baldinini italiano? Innanzitutto buongiorno e grazie per essere con noi. Ciao, grazie a te per avermi invitato, anche perché conosco bene Baldinini e mi rendo conto di quanto stia soffrendo, visto che lui è l'eccellenza italiana in Russia e non solo, quindi insomma lo comprendo il suo affanno, anche insomma la sua difficoltà, proprio anche perché uno si spende moltissimo almeno su quel paese, ma adesso si sta preparando anche la Cina, come diremo. Allora, innanzitutto, caro Oscar, devo dire che i cinesi sono dotati di un grandissimo pragmatismo, per cui loro stanno risolvendo con un centro commerciale di quel tipo i loro problemi, non i nostri, nel senso che la Cina chiaramente sta attraversando una fase molto difficile. Loro sono i primi produttori, tornando alle scarpe, al mondo, e producono scarpe di infimo anche livello, quindi molto lontani dalla fascia Baldini, per intenderci. Però hanno bisogno sicuramente in questo momento di incentivare i consumi interni. Per le scarpe ovviamente non possono permettersi di catturare i consumatori, che stanno diventando sempre più esigenti, cinesi, con le loro scarpacce. Hanno bisogno ovviamente di innalzare il livello di qualità. E la cosa sorprendente è che stanno utilizzando in maniera molto intelligente, e a dire il vero anche con l'aiuto di alcuni italiani ovviamente, questo nostro know-how, tutto questo passato, questa artigianalità. Non a caso in questo centro si aprirà la possibilità di creare delle scarpe su misura. Allora, in un paese di 1.400.000.000 di persone, si scopre, ma non è una cosa che mi sorprende, almeno personalmente, avere una scarpa fatta su misura, cioè fatta proprio per te, può essere un valore aggiunto. E fatta proprio per te vuol dire che non fatta in serie e non la scarpaccia. Quindi un'intuizione geniale. Perché dico con l'aiuto di italiani? Perché questo signore mi ha mostrato personalmente i dépliant del suo viaggio fatto in Italia. Tra tutti quanti, c'è una sorta di viaggio tra la scarpa italiana nei vari distretti, e ogni tappa lui era fotografato con i migliori della zona, cioè Baldinini di turno, per dire. E d'altronde c'era anche un altro dépliant in cui si spiegava come, con le autorità anche italiane, consolari eccetera, al momento del debutto di questa grande struttura c'è stato il classico taglio del nastro. Quindi dietro c'è un lavoro anche di diplomazia, se vogliamo, col nostro paese. Ma il problema è che gli imprenditori italiani dovrebbero prendere loro in mano questa situazione in Cina, cioè cercare in qualche modo, e Baldinini lo sta facendo, perché c'è questo annuncio di un debutto di MICAM, che è la mostra, cioè la fiera della scarpa più importante al mondo, che debutta anche in Cina. Quindi anche qui, via tutti questi problemi, le paure, andiamo in Cina poi ci copiano, no, hanno deciso i nostri industriali delle calzature di andare a affrontare questo mercato in proprio. Io penso che questo sia una cosa molto molto importante, una svolta, nonostante che in apparenza possa sembrare una sorta di resa, ma in realtà no, probabilmente questa è la via giusta anche per competere sul mercato cinese con personaggi come Leolin. Ma e personaggi come Leolin, al di là del come hai descritto il fatto che poi si è girato tutti stretti, ha tentato di introiettare tutta l'eccellenza esatto. italiana per portarla lì, sono dei nemici temibili o sono anche dei disposti in qualche misura, secondo te, di fronte a un'iniziativa come il MICAN, che è la più grande fiera non di proprietà della fila di Milano, quindi che i calzaturieri portano lì, a dare una mano? Sono integrabili quelli che hanno fame come Leolin di testa e l'eccellenza italiana? Sicuramente in qualche modo con loro ci si può accordare, nel senso di non dargli il monopolio della gestione dell'italianità, in questo caso l'artigianalità, il livello di competenza che non si acquista in una sola generazione, nemmeno forse in due, nemmeno in tre. Ecco, la possibilità di dialogare direttamente, cioè di invitare quelli come lui a una fiera fatta in Cina, in modo tale da iniziare anche ad avere, come dire, anche dei rapporti commerciali, dei rapporti di business, ecco, senza che siano loro a farsi, ecco, questo mi è successo, non è la prima volta, mi chiedevi all'inizio del mio intervento, che vedo operare in questo modo dei cinesi molto ricchi, perché poi alla fine ovviamente certo. quelli che possono attivare molto ricchi o molto ben introdotti, perché noi qua diciamo in Italia lo Stato, ma sulla Cina bisognerebbe aprire un capitolo, non basterebbero 5 versioni di Oscar, nel senso che comunque è importantissimo, non a caso questo signore è venuto a seguito di una delegazione della municipalità della città e quindi in qualche modo viene ad aprirsi tutto un mondo completamente diverso dal nostro, in cui effettivamente poi se non hai degli agganci, quelli che lo chiamano le guanxi con la quelli che tu chiami amicali, come si chiamano? Guanxi. Sono praticamente questi rapporti amicali che vanno di là dalla famiglia, da tutto, ma sono rapporti saldi che poi si traducono ovviamente in business, e quindi questo signore ovviamente è uno, c'ha una rete di questi rapporti, esatto, quindi Rita Fatiguso ci dice che esiste finalmente la possibilità di una integrazione, sia pure molto competitiva, su mercati così grandi, a patto che in Italia non prendiamo a calci nel sedere quelli che sono bravi in questo settore. E invece oggi vi abbiamo rappresentato questo paradosso, il paradosso del mercato più avanzato del mondo che capisce che siamo bravi, e gli amministratori locali di dove sta l'impresa Baldini che non lo capiscono, anzi no, non gliene frega niente, perché dicono tanto qua, di qua devi passare, qua devi stare e a noi devi pagare. Come può andare avanti un paese così? Facciamo gli incontri sulla produttività a Palazzo Chigi, ma dobbiamo cambiare dal basso, dalle fondamenta, dobbiamo farlo. Intanto il Sassuolo di Squinzi mi dicono è il primo in Serie B a punteggio pieno, ma non so quanto durerà. A domani.